Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Palazzo Madama approva le dimissioni di Di Girolamo, scontro anche sugli applausi del PDL all'ex senatore. Ancora caos sulle liste, oggi due decisioni sulla Lombardia e sul Lazio, ricorso della Polverini contro la seconda esclusione. Da oggi è libero Omar, uno dei due assassini di Novi Ligure, parla Don Rigoldi che lo seguì all'inizio per un ragazzo, 9 anni, valgono il doppio. Calcio, oggi in campo un Under 21 storica, 3 italiani di colore in squadra. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura la politica, il Senato, dove si sono votate le dimissioni di Di Girolamo, accusato di essere stato eletto con i voti dell''ndrangheta. Ci colleghiamo con Palazzo Madama, con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Di Girolamo non è più senatore della Repubblica, da questo momento non gode più delle prerogative parlamentari e potrà essere arrestato. L'aula di Palazzo Madama ha dunque accolto le sue dimissioni, 259 voti a favore, 16 contrari, 12 astenuti. L'ex senatore è intervenuto in aula questa mattina ribadendo la propria estraneità ai fatti. Non sono un untore, dopo tanto fango credo che sia giunto il momento della verità dei fatti, ma sentiamo la sua voce. Non ho assolutamente portato all'interno di quest'aula l'indegnità dell''ndrangheta o della mafia, così come mi è stata scritta. Un dibattito che si è svolto in un clima di forte tensione, soprattutto quando al termine del suo intervento si sono levati gli applausi dal centrodestra, un gesto di solidarietà che non è piaciuto affatto all'opposizione. Sbalordita si è detta la capogruppo del PD al Senato Finocchiaro, ma il PD contesta anche il fatto che l'Aula si sia pronunciata solo sulle dimissioni e non anche sulla decadenza. Le dimissioni senza decadenza infatti comporteranno che Di Girolamo potrà continuare a godere di alcuni benefit previsti per i senatori al termine del loro mandato. Il PD aveva chiesto dunque di poter discutere una mozione che revocava l'ordine del giorno De Gregorio, che nel gennaio 2009 permise di congelare la decadenza del senatore, richiesta respinta da Schifani perché non all'ordine del giorno. Sentiamo a questo punto come ha reagito la Finocchiaro. Voi siete stati capaci di imprimere al nostro sistema una piccola politica sostenuta da un supremo disprezzo per le forme, i valori, gli strumenti, le regole repubblicane. Mentre sugli applausi sentiamo la replica del capogruppo del PDL al Senato, Gasparri. E anche il rispetto di cui ha parlato anche Rutelli e qualche altro collega, certo il rispetto è una parola che usiamo per una persona che oggi dimettendosi si chiude dietro le spalle le porte del Senato, sapendo che oggi stesso si apriranno per lui le porte del carcere. È un percorso durissimo e doloroso. E dal punto di vista formale a questo punto il Senato trasmetterà l'esito del voto all'autorità giudiziaria, che potrà eseguire il mandato di arresto già spiccato a carico di Girolamo, il quale in realtà ha già detto che si consegnerà spontaneamente, e questo potrebbe avvenire anche nelle prossime ore. Dal Senato è tutto. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi. Noi restiamo in politica per altre vicende. Il caos delle liste alle regionali. È attesa la decisione della Corte d'Appello per la vicenda della candidatura di Formigoni alla Regione Lombardia, mentre questa mattina Renata Polverini ha presentato ricorso contro la seconda esclusione delle liste che la riguardano. Facciamo il punto sulla questione del Lazio, in particolare con Andrea Viali in diretta da Roma. Andrea. Sì, Simone, è atteso a breve anche l'esito del ricorso presentato alla Corte d'Appello di Roma dal PDL dopo la mancata accettazione della sua lista a Roma e provincia. Nel ricorso si sostiene che ai delegati del partito la scorsa settimana era stato fisicamente impedito di rientrare nell'ufficio centrale, dove avevano comunque già lasciato prima dell'orario di chiusura tutta la documentazione necessaria. Sempre la Corte d'Appello di Roma, come dicevi, si pronuncerà entro 48 ore anche sul secondo ricorso presentato stamattina dopo l'esclusione arrivata ieri anche del listino della candidata Renata Polverini, una bocciatura questa causata dalla mancanza di una firma che, se confermata, impedirebbe la stessa candidatura della Polverini. Polverini che stamattina assieme al sindaco di Roma Alemanno ha incontrato prima il presidente della Camera Fini e poi il sottosegretario Letta per fare il punto della situazione. Al termine comunque la candidata del PDL si è detta fiduciosa sull'esito di questi ricorsi. Simone. Sì, grazie Andrea per questi aggiornamenti. ragionamenti, come si diceva, è atteso entro oggi anche il verdetto sul ricorso presentato dal centrodestra lombardo per ottenere la riammissione della lista di Roberto Formigoni alla competizione elettorale. Formigoni era stato escluso dai giudici dell'ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Milano in base ad un ricorso presentato dai radicali. Luca Giuliante, avvocato del PDL lombardo, spiega quali sono stati i rilievi accolti in prima istanza dai giudici e su cosa è basato il ricorso di cui si attende il verdetto. L'intervista è di Stefano Totoro. I rilievi sono di quattro tipi, che sono l'assenza del timbro tondo, in talune autentiche del luogo dove queste sono state redatte, l'assenza della data in cui le stesse sono state redatte e, su due atti separati, la mancanza dell'indicazione della qualifica del soggetto che aveva autenticato. Nel ricorso vi appellate alla sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2006. In che modo potrebbe essere d'aiuto alla lista Formigoni? Nella sostanza dice questo, che per quanto sia necessario rispettare le forme, però queste non possono prevalere rispetto ad un atto che nella sostanza raggiunge lo scopo per cui è preposto. Quindi, specie in una materia come quella elettorale, dove si deve salvaguardare un principio che è di natura costituzionale, quindi la possibilità di partecipare liberamente a una tornata elettorale. Ci aspettate una risposta entro oggi? Ma noi ci aspettiamo una risposta entro oggi. Evidentemente auspichiamo una risposta positiva, anche perché, guardi, sarebbe molto triste apprendere che la possibilità di partecipare a una tornata elettorale, peraltro per due liste, il PDL e la Lega, che sono certamente espressione della maggioranza dei cittadini in Lombardia, sia appesa ad un timbro tondo. E a questo tema era dedicato il nostro sondaggio di oggi. La forma è sostanza per la maggior parte dei nostri ascoltatori. Ecco dunque che per il 63% di loro l'esclusione attuale delle liste Polverini e Formigoni dalle competizioni regionali non sono dovute all'eccessiva burocrazia. Le regole sono regole e vanno rispettate, insomma, anche perché molti lamentano che quella burocrazia, ora criticata da molti politici, si abbatte quotidianamente come una mannaia sulla testa dei cittadini comuni. Piero Stellino, editorialista del Corriere della Sera, osserva questo pasticcio tutto italiano delle firme mancanti, dei timbri apposti male, dei ricorsi e ne trae una severa lezione. Sotto accusa è il paese, cioè il modo di legiferare e di governare questo paese. Non lo si può governare decentemente con leggi che si contraddicono, con regolamenti, divieti, licenze e compagnia bella che creano una congerie incredibile di casi che sono difficilmente risolvibili. Cioè, noi abbiamo un paese sudamericano, punto. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo argomento e parliamo di economia. Il quotidiano La Repubblica parla oggi di una legge che consentirebbe di aggirare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. La vicenda crea dibattito al 15° congresso della UIL. Interviene anche il governo. Sta seguendo per noi i lavori del congresso Maria Chiara Grandis. Maria Chiara. Sì, buongiorno, qui è la seconda giornata dei lavori del 15° congresso nazionale della UIL. Il tema, come dicevate, che tiene banco è proprio quello del disegno di legge sul lavoro in via d'approvazione, grazie al quale, secondo i sindacati, sarebbe possibile aggirare l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ossia quello che tutela il licenziamento senza giusta causa. Un testo che deve passare alla Commissione Lavoro di Palazzo Madama per avere poi il via libera definitivo dell'Aula del Senato. Un testo in base al quale le controversie tra datore di lavoro e dipendente potrebbero essere risolte anche da un arbitro in alternativa al giudice. Per la CGIL si tratta di una controriforma delle basi del diritto del lavoro italiano, smentisce il ministro del lavoro Maurizio Sacconi a margine del suo intervento al congresso. È l'ennesima prova della malafede di chi vuole sempre accendere la tensione sociale, dice. Sentiamo allora le sue parole ai nostri microfoni. È una sciocchezza, punto, una pura sciocchezza frutto di ignoranza. A parte che sceglie il lavoratore, ma è tutto rinviato ai contratti collettivi. Sono i contratti collettivi che disciplinano questa materia. Oggi dal congresso della UIL interviene sulla questione articolo 18 anche il segretario Luigi Angeletti. Questo tema deve essere oggetto di confronto e discussione con i sindacati e le associazioni di impresa, ricorda, per concludere che nel caso di danni seri il sindacato non starà con le mani in mano. Un commento arriva anche dal segretario della CISL, Raffaele Bonanni, secondo il quale l'unica cosa da fare è che queste materie siano affidate alle parti sociali. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie dunque a Maria Chiara Grandis. La cronaca adesso, da oggi è Libero, avendo scontato la pena Omar Favaro, protagonista con Erika De Nardo del massacro di Novi Ligure avvenuto il 21 febbraio del 2001. Il magistrato di sorveglianza ha concesso i 45 giorni di libertà anticipata perché la pena sarebbe scaduta il 17 aprile. Omar adesso ha 27 anni, era entrato in carcere due giorni dopo aver ucciso a coltellate insieme alla fidanzata Erika, appunto, la madre e il fratellino di lei. Sulla difficoltà di un percorso riabilitativo, Dario Ceccarelli ha intervistato Don Gino Rigoldi, che al Beccaria ha avuto modo di conoscere i due ragazzi dopo il delitto. Don Gino, la prima domanda che molti si fanno è: 9 anni dopo Omar è già libero, di già molti dicono. Ecco, lei come risponde a questa domanda un po' angosciante che le persone si fanno? Beh, intanto bisognerà dire che per un adolescente il carcere è un tempo doppio, cioè, mentre con 40-50 anni gli anni sono 1, 1, 1, 1 e 1, per un adolescente che ha tutta la vita in testa, che si sta sviluppando con la sessualità e la voglia di relazione, di futuro, il carcere pesa il doppio, non sono 9 anni ma sono 15 per Omar, è uno. Due, si tratta di un adolescente col quale è stato fatto un lavoro, credo, ottimo, perché non soltanto perché un adolescente deve imparare ad assumersi delle responsabilità, anche a capire un po' quali sono le sue risorse, ma anche perché è sempre determinante per la crescita che uno riesca a convivere con il reato che ha commesso. Perché io di adolescenti che hanno commesso omicidio ne ho visti veramente tanti, che siano in pace con se stessi pochi, perché bisogna proprio riuscire a fare un grosso lavoro, immagino che gli educatori, gli psicologi l'abbiamo fatto con Omar, mi pare che abbia fatto anche un bel lavoro. Dopodiché questo è un adolescente, 9 anni è stato dentro, è tanto tempo, più che mai per gli adolescenti la pena ha un fine rieducativo. Nel momento in cui i giudici, ma gli educatori prima e i giudici poi, hanno verificato che questo ragazzo ha raggiunto il suo equilibrio, la legge prevede che poi gli umori del popolo, mi spiace che siano così aggressivi e qualche volta siano così, che abbiano così tanta voglia di giudicare, di decidere cosa va bene e cosa va male, ma la legge costituzionale e quella relativa ai giovani dice che noi dobbiamo lavorare perché fuori siano persone che possano ricominciare a vivere una vita buona e bella per sé e per gli altri. Questo è accaduto, questo avviene, meno male. Questa crescita fuori sarà accompagnata da una tutela dell'assistente sociale, dello psicologo, quindi non sarà una libertà senza nessun limite, però mi sembra una cosa buona. Ma si può lasciarsi alle spalle veramente un episodio del genere? No, non si può lasciarsi alle spalle, però lasciarsi alle spalle come una pena di dentro, come una voglia in qualche maniera di risarcire, di fare qualcosa di buono per togliersi con un senso di peso e forse che di sporco che una dentro, questo per sempre ce l'avrà. Io credo per sempre. Io ho visto uscire poca gente, sono uscite quelle persone che sono uscite, che ho visto uscire, è perché avevano avuto un incontro veramente profondo di fede oppure un grandissimo amore, e allora questo ha creato lo star bene e l'essere persone che riescono a riavere un loro equilibrio, insomma. In chiusura di questa prima parte parliamo di cinema. Nessun boicottaggio degli esercenti contro la proposta di far uscire il DVD prima del tempo. Uno dei film più attesi della stagione esce regolarmente oggi. Uno di quei film talmente attesi da rischiare di deludere. Va detto subito, i puristi di Tim Burton si preparino, è un film molto Disney, coi buoni che vincono e coi cattivi che perdono. I puristi del 3D siano avvertiti, tanti effetti sembrano posticci, soprattutto dopo aver sperimentato l'integrazione perfetta di Avatar. I fan di Lewis Carroll non si aspettino fedeltà alle precedenti versioni della storia, alla fine però resta un film da vedere. Alice, sei tu! Stiamo ovviamente parlando di Alice in Wonderland, da vedere per Johnny Depp cappellaio grunge, per le intuizioni visive, quelle sì burtoniane, per la scenografia e i costumi, per la regina rossa. Alice è tornata nel paese delle meraviglie. Da quando te ne sei andata, la regina rossa domina il paese delle meraviglie. Trovatela! Helena Bonham Carter, attrice nella vita compagna della regista, che ha dato vita a un personaggio perfetto per il quale non si può che fare il tifo. Ma i buoni, ahi noi, dicevamo, in questo film devono trionfare. E trionfa Alice, Mia Wasikowska, australiana ventenne, quasi esordiente e già sul set del prossimo film, con Gus Van Sant. Insomma, un'ottima scoperta. Abbiamo la nostra paladina. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. We'll be right back. Le 13:18 minuti e 30 secondi nella prima parte del giornale radio. Abbiamo parlato dell'approvazione da parte di Palazzo Madama delle dimissioni del senatore Di Girolamo, che a questo punto è un ex senatore, potrà essere arrestato dai magistrati che indagano nell'inchiesta sul maxi riciclaggio. Abbiamo parlato del caos nelle liste, oggi sono attese decisioni che riguardano sia la Lombardia sia il Lazio. Nel frattempo Renata Polverini ha presentato un nuovo ricorso per una nuova esclusione. Poi abbiamo parlato del fatto che ad oggi è libero uno dei due assassini di Novi Ligure, che ormai ha 27 anni. Adesso ci occupiamo di due inchieste, a partire da quella sugli appalti per il G8. E dunque, mentre a Roma i magistrati perugini stanno procedendo a nuovi interrogatori dell'ex presidente del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici Angelo Balducci, dell'imprenditore Diego Anemone, del dirigente del Ministero dei Lavori Pubblici Mauro Della Giovan Paola, arrestati il 10 febbraio scorso, emergono nuovi particolari, ce li riferisce in diretta Beatrice Vergari. Beatrice. Sì, buongiorno. Si stanno concludendo in questi minuti nel carcere romano di Regina Coeli gli interrogatori di garanzie per le tre figure centrali accusate di corruzione nell'inchiesta sui grandi appalti del G8. Il GIP di Perugia, Paolo Micheli, ha iniziato 2 ore fa a sentire l'ex presidente del Consiglio Nazionale dei Lavori Pubblici, Angelo Balducci, l'ex dirigente dei Lavori Pubblici, Mauro Della Giovan Paola, e l'imprenditore romano Diego Anemone. Confidiamo in un provvedimento favorevole, abbiamo fatto istanza di scarcerazione, ha dichiarato all'uscita pochi minuti fa Antonio Albano, avvocato di Mauro Della Giovan Paola. Il legale ha poi aggiunto che il suo assistito ha risposto e ha avuto l'opportunità di chiarire quasi tutti gli aspetti di questa vicenda. Oggi il caso si arricchisce di particolari. Dalle colonne di alcuni quotidiani nazionali emerge che gli indagati potevano contare anche su contatti nella Guardia di Finanza e nei servizi segreti. Gli investigatori, riferiscono i quotidiani, hanno inoltre individuato una società che sarebbe stata intestata al coordinatore del PDL Denis Verdini e riconducibile all'imprenditore indagato Riccardo Fusi, ex amministratore dell'impresa di costruzioni BTP. Sempre oggi il CSM ha accolto all'unanimità le dimissioni del procuratore aggiunto di Roma Achille Toro, coinvolto nell'inchiesta. Per ora è tutto, a voi la linea. Grazie dunque Beatrice Vergari, e noi ci spostiamo a Milano per un'altra inchiesta di tutt'altro tipo, molto importante, che riguarda un traffico di armi verso l'Iran, e sarebbero coinvolti anche dei servizi segreti, i servizi segreti di Teheran. Ci colleghiamo in diretta con Raffaella Calandra per tutti i dettagli. Raffaella. Sì, la commessa complessiva era di 1000 puntatori ottici, cioè quelli che servono per i fucili dei tiratori scelti. Per ottenerla, evitando l'embargo, Teheran si serviva anche di 2 suoi agenti segreti residenti in Italia. E anche loro ci sono tra le 7 persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Milano per traffico di armi da guerra. Altri 2 iraniani sono latitanti. Uno dei 2 007 era accreditato come giornalista straniero a Roma, e sono loro a contattare i 5 italiani che poi materialmente compravano armi, esplosivo, paracaduti e anche 9 elicotteri dalla Germania, facendoli passare per Romania, Gran Bretagna, Svizzera e Dubai, per cercare così di nascondere la destinazione finale iraniana. Prima di Natale uno dei 2 italiani si era anche recato appunto in Iran per trattare con rappresentanti dell'esercito di Ahmadinejad. Un puntatore ottico è stato inoltre trovato anche nella base inglese Basra in Iraq. Alle indagini un contributo fondamentale, ha voluto ricordare il procuratore aggiunto Armando Spataro, è stato dato dalle intercettazioni, e con la nuova legge in discussione al Senato questa inchiesta non sarebbe stata possibile, un'inchiesta che, ricordiamo in conclusione, sembra non essere ancora finita perché si stanno facendo accertamenti su conti e società italiane anche all'estero. Simone. Grazie dunque Raffaella Calandra, e noi ci spostiamo a Palermo, dove c'è un primo indagato per l'omicidio dell'avvocato ed ex parlamentare di AN Fragalà. Un cliente dell'avvocato Enzo Fragalà, barbaramente aggredito con una mazza di legno martedì della scorsa settimana a Palermo, è stato iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio del penalista. L'uomo, un giovane che corrisponderebbe sommariamente alla descrizione fornita dai testimoni dell'aggressione, è una delle 3 persone che erano state oggetto di perquisizione domiciliare già nelle ore successive al pestaggio di Fragalà, deceduto venerdì scorso dopo 3 giorni di agonia. L'indagato in passato era stato condannato per fatti di microcriminalità e riteneva di non essere stato difeso bene. In casa del giovane indagato, i carabinieri hanno sequestrato due caschi integrali da motociclista, una mazza e un paio di scarpe, sui quali i magistrati intendono far fare delle analisi al RIS dei carabinieri di Messina. Trattandosi di atto irripetibile, i PM hanno dovuto iscrivere l'uomo nel registro degli indagati, notificando gli avviso di garanzia per consentirgli di nominare un consulente che assista all'esame. Al vaglio degli investigatori anche l'alibi già fornito dal giovane per la sera di martedì, ma il giovane non sarebbe l'unico sospettato del delitto. Oggi intanto nuovo interrogatorio per la moglie e i figli dell'avvocato Fragalà. In particolare dalla figlia Marzia, praticante avvocato nello studio del padre, i magistrati vorrebbero avere indicazioni sui clienti rancorosi nei confronti del penalista. Giampiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Il terremoto in Cile, adesso sentiamo cosa succede in queste ore nell'epicentro del sisma con la corrispondenza. Il coprifuoco questa volta funziona e come? Qui a Concepción la città è entrata sotto il controllo pieno dei militari, più di 7.000 schierati in ogni quartiere, con blindati, jeep, elicotteri. Ad ogni posto di blocco ti viene chiesto il lascia passare, qualsiasi persona trovata senza di esso viene arrestata. Nella notte c'è stato un incendio in un supermercato, ma nessun assalto o saccheggio, ciononostante in alcuni quartieri si sono viste ancora le barricate dei vicini. Con l'ordine pubblico per ora apparentemente risolto, si inizia a parlare di responsabilità e tutti puntano il dito contro il governo. Agito tardi, dicono, e con decisioni sbagliate. Da Santiago ribattono che è stato fatto tutto il possibile, che le strade erano impraticabili, che allestire un ponte aereo non è questione facile. Polemiche destinate a durare nel tempo. Le preoccupazioni quando arriva il giorno sono altre, come trovare un po' d'acqua e del cibo, come bagnarsi, come spostarsi, come comunicare con familiari rimasti bloccati in zone isolate o in altre città del paese. La radio BioBio, dalla quale sto trasmettendo, diventa così il mezzo essenziale e funziona come un gigantesco nodo per lasciare messaggi, consegnare medicine, aiutare gente in difficoltà. Emiliano Guanella, GR24, Sole 24 Ore, Concepción del Cile. Il governo greco ha approvato misure aggiuntive antideficit per 4,8 miliardi di euro. Secondo quanto trapela il pacchetto di misure aggiuntive contiene un aumento del 2% dell'IVA, nuove tasse su alcol e tabacco, un congelamento delle pensioni, un taglio del 30% delle quattordicesime e dei bonus alla pubblica amministrazione. Si attende un giudizio dell'Unione Europea. Nel frattempo dall'Europa arriva la notizia, lo sapete, che cade la moratoria sugli OGM con il via libera alla coltivazione della patata transgenica Amflora. Contrari le principali confederazioni agricole, fatto eccezione per Confagricoltura e lo stesso ministro dell'agricoltura Zaia. Gli OGM sono già sulle nostre tavole, spiega Roberto De Fez, genetista dell'Istituto di Genetica e Biofisica Adriano Buzzati, intervistato da Katia Caramelli. Ormai da 14 anni i mangimi di mucche e maiali sono fatti a base di mais geneticamente modificato, ma soprattutto di soia transgenica. Dal prosciutto al formaggio, al latte, yogurt, tutto, praticamente l'intero reparto supermercati, refrigerato del supermercato, è da derivati di animali nutriti con OGM. Dal punto di vista della salute, in alcuni casi è molto meglio. Il mais BT è certamente più sicuro per l'alimentazione umana del mais tradizionale e ancora di più del mais biologico, perché ha molte meno fumonisine, che sono delle tossine di origine di alcuni funghi che possono causare gravissimi problemi agli esseri umani, che vanno dal tumore all'esofago a malformazione dei feti. In chiusura parliamo di calcio. Stasera alle 21 Italia-Camerun, alle 18 a Rieti scenderà in campo una nazionale Under 21 storica. La definizione l'ha data già il presidente della Camera Gianfranco Fini, parlando apertamente di generazione Balotelli, cioè quella dei giovani nati da immigrati nel nostro paese e italiani per nascita e formazione. Beh, a vedere l'Under 21 che alle 18 scenderà in campo a Rieti contro l'Ungheria, meglio parlare di generazione Balotelli o Kaká Ogbonna. Perché oltre a Super Mario, il CT Casiraghi schiererà altri due italiani di colore, il difensore del Torino, Angelo Ogbonna, e l'attaccante del Fulham, ma di proprietà della Roma, Stefano Okaka, entrambi di origini nigeriane. E l'ex giallorosso è ben consapevole del valore extracalcistico dell'appuntamento. Speriamo che ci siano tanti altri ragazzi di colore che vestano questa maglia. Penso che sia una bella soddisfazione un po' per tutti, e sintomo di evoluzione, no? È infatti la prima volta che una squadra azzurra schiera in campo 3 giocatori di colore, ma che nessuno parli di Italia che verrà, perché la generazione Balotelli è già l'Italia di oggi, e non solo nel calcio. Dario Ricci, GR 24, il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di GR 24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci e con in regia Fabio Cantadori. Il prossimo giornale radio alle 14. GR 24, il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.